Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori, quindi saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi parliamo di una di quelle vicende che, ahimè, potrebbe capitare a chiunque di noi, perché certe volte ci lasciamo, come dire, andare alla fiducia di una persona e ascoltandola, perché magari non hai tanto tempo, poni una firma dove non devi porla. È vero? Sì, è verissimo. Questa volta a finire sotto la lente di ingrandimento dei nostri uffici legali è la 100 vetrine SRL di Milano, il quale abbiamo avuto l'ennesimo caso di persona che si è rivolta a noi perché comunque ha sottoscritto un contratto, diciamo, porta a porta in maniera ritenuta, diciamo, tra virgolette ingannevole, in quanto perché tutto è nato un bel giorno da queste persone che come al solito si presentano con il loro bel modo e il loro bel vestito a suonare i campanelli e hanno mostrato un catalogo ricco di offerte e di articoli per la casa, i quali dopo una bella visione hanno fatto sottoscrivere un modulo alla signora garantendogli che sarebbe stato solamente un modulo per la privacy e che avrebbe permesso a questa signora di poter ricevere il catalogo a casa. E invece la sorpresa è stata che questa signora gli è stato notificato un ordine d'acquisto con parecchie migliaia di euro su una serie di articoli, come detto, per la casa, di cui lei si è impegnata a comprare e non quindi a dover ricevere nessun genere di catalogo. Ecco, quindi uno pensa di firmare una cosa, invece, ahimè, questo è il problema, bisogna leggere bene tutte le carte prima di lasciare qualsiasi segno, qualsiasi firma o dare anche i propri dati per la compilazione di un qualsiasi contratto, perché poi di questo alla fine si tratta, la signora ha firmato un contratto e quindi adesso cosa succede? Sì, allora innanzitutto adesso la signora, rivolgendosi ai nostri uffici, chiaramente i nostri uffici hanno mandato la diffida legale alla società, il quale hanno sollevato tutta una serie di obiezioni e contestato tutta una serie anche di atteggiamenti che questa vicenda ha sviluppato nella sua definizione, e pertanto la società, riconoscendo insomma le proprie inadempienze, ha ritenuto superato il contratto e fatto decadere ogni richiesta di pagamento e non ha chiaramente neanche fatto avere nessun materiale, articolo ordinato. Però ci ritroviamo di nuovo, come accennato tu, a parlare di truffe porta a porta e di persone che malgrado possono essere indotte alla fiducia dell'interlocutore a firmare moduli o schede di qualsiasi genere, per un motivo o per un altro ancora cadono vittime di questi tranelli. Allora bisogna superare veramente quelli che sono delle pregiudiziali nei confronti di queste persone e veramente imporsi a non firmare mai nessun modello, perché casi del genere l'Adico ne ha tantissimi. Addirittura ci sono persone che in passato si sono rivolte a noi perché sono stati immobilifici che hanno firmato un semplice modulo di un preventivo fatto perché il venditore aveva spiegato che l'era tenuto a dimostrare il lavoro eseguito fine di un preventivo eccetera eccetera eccetera e poi ha comprato salotti o cucine o camere da letto intere o mobilia di qualsiasi altro genere. Quindi mai firmare per nessun motivo, per nessun operatore, ricordandoci che le società serie non mandano nessuno a suonare porta a porta. Ecco, attenzione, poi adesso mi vengono in mente quelli che si intrufolano nelle case e ti chiedono la bolletta quella del gas piuttosto che della corrente elettrica, dicendoti dobbiamo verificare quanto consuma perché abbiamo la possibilità di farle risparmiare, e non si presentano di fatto per quello che sono, cioè dei venditori che tentano di farti cambiare la società che ti fornisce l'energia elettrica o appunto il gas, e lo fanno in maniera poco chiara, quindi la prudenza è d'obbligo sempre su questi casi e farsi lasciare piuttosto i moduli, e ve li leggete con calma e rinviate a un secondo appuntamento, quella potrebbe essere una soluzione già più buona, no? certamente sarebbe una soluzione ottimale, ma ricordiamoci che nessuna società seria si presenta a casa nostra. Dal momento che questa si presenta è già il momento di escluderla. Nessuno viene perché qualcuno ha inventato qualcosa, ma di fatto la fregatura rimane sempre dietro l'angolo. Non lasciamoci mai abbandonare da quelle che sono delle presenze o un modo di vestirsi, un modo di porsi che loro, queste persone, sono allenate tutti i giorni ad avere. Non crediamo su quelle che sono delle tariffe, delle offerte che magari sono solo delle condizioni di ingresso, poi ti vincolano magari per 2 anni, 3 anni. Ricordiamoci che in questi casi, se si hanno dei dubbi, si può subito recedere, perché ci sono tempo 15 giorni e quindi qua si può far valere il diritto di ripensamento, una bella raccomandata, un fax con ricevuta di trasmissione. Ma soprattutto e continuare sempre a non aprire, a non rispondere al telefono, perché anche qua tante volte le persone al telefono continuano a dare dei riferimenti. Oggi esiste il registro delle opposizioni, le aziende non sono tenute a rispettarlo, se non lo fanno segnalato le garante tramite il sito, tramite i numeri verdi, verranno sanzionate addirittura fino a 15.000 euro per questi atteggiamenti scorretti. Quindi cominciamo ognuno di noi a fare qualcosa affinché questo fenomeno cessi. Ecco, quindi se stiamo attenti e ognuno inizia, come dire, a chiudere le porte, poi diventa di fatto inaccessibile per loro e poco fruttifero, e quindi smetteranno poi un giorno anche secondo me si va un po' a cicli con queste cose, no? Ci si dimentica, poi si riparte dopo qualche anno con un'altra ondata di truffe porta a porta. Certamente, purtroppo questo è il quadro. Noi invitiamo appunto le persone a cominciare a fare qualcosa, perché oltre a dare un contributo ricordiamo che si salvaguardano, e per cui questo, ripeto, è già un passo molto importante. Benissimo, quindi abbiamo detto che è importante essere prudenti. Ricordiamo il sito associazionedifesaconsumatori.it, che è appunto il sito dell'Adico, dove trovate numeri, contatti, tutto quello che vi serve per eventualmente fare anche le vostre domande se avete qualche dubbio. Noi con l'Adico ci ritroviamo invece tra un paio di giorni, sempre con Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.